Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Le persone amano le storie, raccontarle, leggerle, ascoltarle. In 6 mesi ne abbiamo raccontate più di 150. Storie di italiani a Londra, come noi. C'è un'emigrazione vista da fuori, quella fatta dai dati, dei grafici che la descrivono. E poi c'è un'emigrazione vissuta dentro, fatta delle emozioni tante, intricate, che nascono quando lasci il tuo paese. Questo libro racconta questo, è il racconto di noi expat. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Tornano a far parlare di sé le storie di italiani in Gran Bretagna. Oggi vi segnaliamo questo interessante progetto avviato da Italian Kingdom, che ha raccolto in un volume oltre 150 vicende di nuovi espatriati a Londra. A intervistarli la giornalista Silvia Favasuli. Il lato innovativo è dato dal fatto che all'interno del sito Kickstarter è stato avviato un crowdfunding per finanziare la pubblicazione del volume. Torneremo presto a parlare di Italian Kingdom e di questo libro. Per chi volesse maggiori informazioni o contribuire al crowdfunding, il sito di riferimento è italiankingdom.com. Oggi in primo piano il tema delle giovani famiglie che lasciano l'Italia con una storia che ci porta in Svizzera. Restate con noi, vi aggiorneremo anche sulle ultime novità relative al destino della legge contro esodo. E la frase della settimana è copyright del direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, Fabio Beltrami. Il suo è un vero e proprio j'accuse contro l'incapacità del nostro paese di intercettare lo straordinario patrimonio di competenza e innovazione dei normalisti, che troppo spesso decidono di andare all'estero, e quella di troppe imprese che non sanno apprezzare il valore di una preparazione ad alto livello. Considerazioni che devono farci riflettere. Scuola italiana bocciata in internazionalizzazione. I nostri docenti la fibbiano un magro 5 in pagella. Quella italiana è considerata una scuola generalmente restia al cambiamento. Così la ricerca 2015 dell'Osservatorio sull'internazionalizzazione delle scuole e la mobilità, promosso da Intercultura. Nel rapporto si evidenzia una profonda disparità tra tipi di insegnanti. Sono soprattutto i professori internazionali, 18% del campione, ad avere studenti coinvolti nei programmi di mobilità. Va molto diversamente per i professori local. Ben il 60% del campione hanno meno studenti coinvolti e interessati a questo tipo di attività. Eppure il mondo sta cambiando e se non stimoliamo i giovani di oggi, adulti di domani, ad aprire gli occhi sul cambiamento, difficilmente potremo costruire un paese moderno, aperto e internazionale, anche nei meccanismi di selezione, su quelli sì che c'è da lavorare davvero tanto. Il problema secondo me è che quando sei all'estero ti puoi concentrare sul contenuto, i metodi di selezione sono chiari. Quando guardi all'Italia, i metodi di selezione, il non ricevere risposta, sono tutte cose che ti distraggono e quindi la sfiducia è forte. Luisa Boaretto, 38 anni, è una change manager di base in Svizzera. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura le rassicurazioni del capogruppo di Area Popolare alla Camera Alessandro Pagano sul pasticcio della legge contro esodo, sulla cui abrogazione vi stiamo tenendo aggiornati da oltre un mese. Pagano afferma: già nel passaggio al Senato della legge di stabilità occorre intervenire per estendere i benefici per il rientro dei cervelli e sanare il pasticcio emerso con le norme contenute nel decreto sull'internazionalizzazione delle imprese. È stato un errore involontario cancellare la proroga degli sgravi fiscali previsti da controesodo, al quale si deve porre rimedio, così Pagano. Intanto i controesodati non sono rimasti con le mani in mano. C'è chi, come Francesco Rossi, rientrato nel 2009 dall'Irlanda, ha avviato una raccolta firme online per porre rimedio al pasticcio che, secondo stime ufficiose, coinvolgerebbe 10.000 persone. Sentiamo come sta andando. Abbiamo raccolto circa 1.000 firme. Tutte di controesodati, cioè ragazzi che, come te, under 40, sono tornati in Italia usufruendo della legge controesodo. E magari sperando o contando sull'estensione della controesodo appena approvata pochi mesi fa con la 1.000 proroghe convertita a febbraio. Voi avete fatto un'azione, diciamo pure, di lobbying presso il Parlamento e i parlamentari per cercare di salvare controesodo. Abbiamo contattato singolarmente le istituzioni, quindi Presidente del Consiglio, MEF, e poi ci siamo mossi sui parlamentari che più da vicino si sono esposti sul tema del rientro dei cervelli. In questo poi si sta concretizzando sul DDL stabilità con degli emendamenti che noi speriamo... Tra poco ci arriviamo, però qual era il vostro messaggio a questi parlamentari? Il nostro messaggio era: non è possibile in uno Stato di diritto promettere una cosa e dopo pochi mesi cambiare le carte in tavola. Tante persone hanno basato decisioni di vita importanti sulla proroga della controesodo, è inaccettabile cancellarla con un colpo di penna dopo pochi mesi. I vostri sforzi hanno già prodotto dei primi effetti con almeno 2 emendamenti alla legge di stabilità. In breve, quali sono le proposte di modifica attualmente sul tavolo? Ce ne sono due fra loro simili. La prima è di andare ad abrogare l'abrogazione della controesodo, quindi riportare l'orologio indietro a febbraio e mantenere la durata della controesodo fino al 2017. L'altra invece sembra fermarsi prima, quindi sembra mantenerla in vita solo fino al 2016, quindi con una soluzione che ci fa contenti soltanto a metà. Per info sulla raccolta firme digitate l'hashtag controesodo su Twitter. Noi continueremo a tenervi aggiornati sulle novità relative alla sopravvivenza o meno della legge 238/10. Se con il rilancio del Jobs Act il governo cerca di dare scacco matto alla disoccupazione giovanile e ridurre il gap che grava sulle nuove generazioni, i numeri dell'Istat certificano che la ripresa economica fatica a tradursi in una secca inversione di rotta, soprattutto per le under 25. Oltre 600.000 disoccupati, 4,5 milioni di inattivi che non studiano né lavorano, un primato negativo dell'Italia in Europa, dove solo la Grecia fa peggio, lo afferma un'inchiesta del Sole 24 Ore lunedì. Il demografo Alessandro Rosina dell'Università Cattolica conferma nel suo recente libro Net: la penisola detiene il drammatico primato europeo di giovani inattivi. Lo scorso anno era inattivo il 26% degli under 30, 9 punti sopra la media. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Svizzera, paese che ci offre l'occasione per affrontare un tema importante, quello delle coppie che emigrano con figli, perché con loro se ne va un pezzo importante del nostro futuro, forse anche l'unico possibile. Nome: Luisa. Cognome: Boaretto. Età: 38 anni. Città di origine: Genova. Studi: laurea magistrale in economia politica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? Strasburgo, Francia. Perché? Per un'opportunità professionale all'interno dell'azienda per cui lavoro. Qual è il lavoro svolge attualmente? Change manager. Dove? A Zurigo. Tornerai? Non credo a breve. Ho avuto opportunità professionali che probabilmente non sarebbero state possibili in Italia per una giovane donna, affermi in modo molto diretto Luisa Giovani Talenti @radio24.it. Lo sappiamo che questa appare purtroppo spesso come una frase fatta, quasi scontata, ma in che termini concretamente emigrare offre maggiori opportunità? Cosa cambia? Per definizione, quando si vive e lavora all'estero ci si confronta con delle realtà diverse e questo offre dei punti di vista, delle modalità di fare le cose differenti. Automaticamente nascono opportunità. Nel mio caso io ho potuto viaggiare tantissimo all'interno della mia azienda, vedere delle funzioni, dei processi che altrimenti non avrei potuto vedere e ho ottenuto tantissima visibilità interna che poi mi ha portato subito a dei lavori con delle responsabilità e anche la società mi ha dato fiducia. Allora, la tua storia professionale inizia con una laurea in economia politica. Perché hai scelto questa strada? Due motivi. Il primo è che la mia università era molto rinomata e offriva un tasso di impiego dopo la laurea molto alto rispetto ai competitor, diciamo. E la seconda era che l'università si trovava in una città diversa rispetto a quella in cui vivevo all'epoca e questo soddisfava la mia voglia di avventura, scoperta, indipendenza, che ovviamente poi mi ha portato anche ad andare all'estero. Col senno di poi, che voto dai all'università italiana? Alla mia personale 7 su 10. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Luisa, premesso che per tre quarti del tempo il tuo lavoro, diciamo, alsaziano prevedeva trasferte all'estero, cosa ti è rimasto di quell'esperienza francese in termini di crescita professionale? Oltre ad aver visto diversi processi aziendali e le funzioni, sicuramente anche il network è quello che mi ha permesso di avere uno spettro internazionale nella mia professione. La vera svolta arriva 2 anni dopo col trasferimento in Svizzera. Ti muovi nel quartiere generale europeo della tua azienda, vicino a Zurigo. Svizzera, che non è un ambiente semplicissimo dove integrarsi, noti, ma in termini di valorizzazione delle tue competenze e potenzialità sentivi di aver fatto un passo in avanti? Sì, innanzitutto perché il ruolo che avevo era ancora diverso, quindi ero nella finanza pura e poi perché nel quartier generale ci si avvicina a chi fa le decisioni strategiche. Io per 3 anni ho anche riportato un vice president, quindi aver avuto accesso a come funziona in certe sfere alte delle società mi ha aperto gli occhi, sia in positivo che in negativo, direi. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Luisa Boaretto, 38enne change manager al lavoro per una multinazionale in Svizzera. Un percorso che inizia in Francia, quello di Luisa che nei primi anni all'estero ha l'irripetibile occasione di girare il mondo per lavoro, poi il trasferimento nella Confederazione dove, grazie all'appoggio della sua azienda, cambia radicalmente ruolo. Lei continua a guardare all'Italia ma si rende conto che, nonostante la diversa cultura con cui si deve confrontare, il sistema sociale in cui è inserita in Svizzera le offre maggiori garanzie. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. 3 anni dopo, siamo a metà 2011, cambi carriera a 180 gradi, non cambi società, cambi mansione, dalla finanza al change management. Cos'è esattamente il change management e, insomma, di cosa ti occupi? Change management è una professione che, se viene svolta correttamente, permette a coloro che sono coinvolti in un cambiamento, che può essere di sistema, organizzativo, addirittura culturale, di minimizzare quelli che vengono considerati gli impatti negativi, resistenza, frustrazione, spaesamento, e di ridurre il tempo di adattamento alla nuova realtà. Perché in Italia questa funzione, il change manager, viene vissuto anche con connotazioni negative? Perché spesso viene associato in Italia, ma anche in altri paesi, a delle ristrutturazioni aziendali che hanno degli effetti negativi sul personale. Quanto vengono incentivati all'estero i cambi anche radicali di traiettoria professionale? Perché, insomma, in Italia questo non pare molto appartenere alla nostra cultura di impresa. Forse direi che in Italia talvolta l'atteggiamento è lo stesso, ma sicuramente mancano le opportunità. Mentre all'estero viene incoraggiato a sperimentare, e nel mio caso è stata una scelta mia. Ho seguito le mie passioni, ho seguito quello che mi piaceva fare, ma spesso la società, che per aumentare le tue competenze ti espone a dei ruoli completamente diversi durante la tua carriera. La cosa forse più incredibile è data dal fatto che in tutto questo hai trovato anche il tempo di avviare una tua attività. Hai aperto una società di coaching. Cosa fai specificamente? Attraverso il coaching io ho riscoperto i miei valori, le mie passioni, ho fatto questo cambio radicale di carriera. L'ho trovato così potente che ho deciso anch'io di diventare coach, e tramite il coach aiuto i miei clienti a trovare chiarezza di nuovo sui loro obiettivi professionali, personali, e soprattutto anche a raggiungerli. A livello burocratico e di tassazione è facile aprire una società propria in Svizzera? Credo di averci messo meno di mezz'ora in tutto, e se devo dire riguardo alla tassazione, fino a certe soglie di reddito non devi aprire partita IVA, il modello di dichiarazione è semplicissimo, per cui sì, molto incentivante. Qui ho avuto opportunità di crescita significative per una giovane donna, tiri le somme. Allora ti chiedo, vedi Oltralpe una cultura delle pari opportunità più sviluppata? E se sì, quali blocchi esistono a questo proposito nella penisola? Sì, ti direi che è più sviluppata perché ci sono più opportunità concrete per confrontarsi, per parlarne e per avere esempi, non solo di donne ma anche di uomini. In realtà credo che all'estero ci sia più attenzione a quelli che sono il gestire il lavoro, il tempo libero, la famiglia, più opportunità. Qualche tentativo di ritorno l'hai fatto, in questi anni ho provato a mandare più volte candidature per ruoli indipendenti all'interno di CDA di società italiane quotate, un'esperienza sconfortante, la definisci, perché? Perché nonostante si pubblicizzi il bisogno di donne in gamba, giovani, con pedigree internazionale, io ho mandato applicazioni e non ho praticamente mai ricevuto neanche una risposta, e quindi chiedendomi perché mi chiedo se talvolta il cognome oppure gli agganci che si hanno contino di più di quella che è l'esperienza. Infatti, allora tu ci scrivi una frase, ci fa riflettere. Perché scrivi: se penso al mio potenziale di vita professionale mi viene la pelle d'oca nel pensare al raccomandato o figlio del potente di turno che potrebbe essere avvantaggiato nella competizione interna alle aziende in Italia, ovviamente. Allora Luisa, in tutta onestà, è così forte ancora la sfiducia da parte di voi italiani all'estero nei confronti dei metodi di selezione e progressione di carriera nella penisola? Temo di sì, Sergio, perché il problema secondo me è che quando sei all'estero ti puoi concentrare sul contenuto, i metodi di selezione sono chiari. Quando guardi all'Italia, i metodi di selezione, il non ricevere risposta, sono tutte cose che ti distraggono, e quindi la sfiducia è forte. Io preferisco rimanere là dove posso solo guardare al contenuto e non al processo. Sei stata chiarissima, grazie anzi di questa chiarezza. Come vedi l'Italia dall'estero, Luisa? Cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Io la vedo un pochino troppo focalizzata verso se stessa all'interno e talvolta un pochino arrogante. La mia proposta concreta, con la mia esperienza anche di imprenditrice all'estero, è quella di ridurre e semplificare la burocrazia, perché chi ha idee o progetti di poterli realizzare in Italia e non di dover fuggire all'estero per poterlo fare. Ci raggiunge ora in linea Massimo Ruffoni, finance manager e soprattutto marito di Luisa. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora Massimo, Premettiamo subito che tu attualmente sei alla ricerca di un lavoro dopo la ristrutturazione interna della tua azienda in Svizzera. Alle spalle hai una laurea in economia aziendale e anche un MBA. Allora, può sembrare incredibile, ma la crisi in Svizzera ha colpito proprio gli expats come te altamente qualificati. Perché? Il problema penso che derivi dal modello socio-economico svizzero. Infatti, da un lato ci sono altissimi salari con una crescita esponenziale, tranne un laureato e top management, e un alto costo della vita, e dall'altro il fatto che per motivi fiscali le multinazionali sono avvantaggiate a risiedere qui. Tuttavia una forte valuta implica che ormai il personale senior è troppo costoso e quindi non conviene più localizzarlo in Svizzera. Nella tua ricerca di lavoro, ti chiedo, hai provato a guardare anche all'Italia e se sì, con quali risultati? Sì e no. Sì, in quanto come lavoro principale mi piacerebbe continuare a lavorare in finanza, ho attivato il mio network, ho inviato curricula direttamente e così via, ma non ho ricevuto alcuna opportunità seria. Ho ricevuto offerte per posizioni molto junior rispetto al mio profilo. No, in quanto mi piacerebbe continuare a lavorare in accademia, col mondo accademico. Attualmente collaboro con una business school in Svizzera e il processo di selezione è stato molto semplice. Ho presentato le credenziali, 3 colloqui, un business case e sono stato assunto. Ecco, vedo, non siamo ancora così attrattivi per voi expats, eh? Temo. Sì, hai pienamente ragione. In bocca al lupo, Massimo. Speriamo di vederti presto qui insieme a Luisa e alla vostra bambina. E domanda diritto per Luisa Boaretto: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Uno, partire come se non si dovesse tornare mai, però non tagliare completamente i ponti con l'Italia. E due, pensare che l'inglese è necessario, ma purtroppo non è più una condizione sufficiente, per cui darsi da fare. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo. Un esperto in risoluzioni bancarie alla European Banking Authority, sede di Londra, scadenza per i CV 19 novembre, info su eba.europa.eu. Un avvocato specializzato in mercati dei capitali per la European Investment Bank, sede di Lussemburgo, scadenza per i CV 23 novembre, info su irecruitment.eib.org. Infine, il British Council cerca 2 team leader che possano fornire assistenza alle attività diplomatiche europee in Brasile e Messico. Scadenza per i CV 30 novembre. Candidature a andrea.stinga@britishcouncil.be. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi in primo piano uno dei tanti portali che segnalano offerte di lavoro all'estero, anche se in questo caso l'avvertenza che arriva dalla nostra interlocutrice Geraldine Meyer, responsabile della redazione del sito web, è quella di ponderare con attenzione oggigiorno la scelta dell'espatrio. Non necessariamente, spiega, può risultare la soluzione di tutti i problemi, soprattutto quando l'emigrazione non viene ben pianificata. La Meyer cura il portale Lavorare all'estero. Lavorare all'estero nasce quasi una decina d'anni fa. Avete notato negli ultimi anni un ulteriore afflusso di visite? Si è parlato di un aumento dell'immigrazione, sì, eccetera. Sì, assolutamente. Dove sono le regioni del mondo dove segnalate maggiormente le offerte di lavoro per chi vuole andare all'estero? Quelle su cui ancora adesso maggiormente c'è un particolare interesse, probabilmente un po' per un mito e un po' per una vicinanza geografica, in Europa continuano ad essere Germania, Svizzera e Inghilterra, nella fattispecie Londra. Fuori dall'Europa la curiosità continua ad essere nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti dell'Australia e nei confronti della Nuova Zelanda. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.lavorareallestero.it. Un motivo per restare o tornare. Sono in arrivo le nuove agevolazioni alle imprese giovanili e femminili di micro e piccola dimensione. A partire dal 13 gennaio sarà possibile compilare esclusivamente per via elettronica le domande utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione dal sito di Invitalia. Le risorse finanziarie sono pari a 50 milioni. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Pentiti o Felici. Dibattetela in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di novembre è rivolta a tutti coloro che quest'anno hanno deciso di tornare in Italia. Dopo il pasticcio delle 2 norme sui controesodati, siete pentiti o felici di aver fatto la scelta di tornare nella penisola? Vi sentite delusi o, se volete, traditi da norme cambiate in corsa? O al di là di tutto ne è valsa la pena tornare a casa? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci giovanitalenti@radio24.it.